dell'Associazione Culturale Tonino Guerra. Abbiamo come leitmotiv da tanti anni i figli della bellezza, il dialogo, il paesaggio, la questione sociale, la memoria, il rispetto della natura, delle risorse, insomma, queste sono le nostre parole chiave. E questo festival, appunto Luoghi dell'Anima, vuole essere insomma uno spin-off su questi temi che in associazione dibattiamo da tanto tempo, insomma, mi sembrano anche temi attuali. Com'è nato tutto? Stavo appunto ascoltando uno dei nostri eventi che organizziamo a settembre, la festa degli antichi frutti, dove l'antico frutto in realtà è proprio il pomo della memoria più che della discordia, no? E stavo ascoltando Carlin Petrini, che è un amico dell'associazione, era anche molto amico di Tonino, mio padre, e stavo ascoltando appunto i suoi racconti, che sono sempre affascinanti. Raccontava delle catastrofi, la catastrofe batteriologica dove siamo ora, la catastrofe economica dove in realtà ci porterà la catastrofe batteriologica, e tutti stanno allegramente dimenticando la catastrofe climatica che arriverà a breve. Mentre ascoltavo terrorizzato questi divertenti sfoghi di Carlin, mi è venuto in mente, dico, ma io che lavoro nel cinema, come posso portare questi discorsi e dare un supporto a questi temi attraverso il cinema? E allora ho immaginato questo festival Luoghi dell'Anima, appunto, per ospitare questi registi eroi che questo fanno, insomma, che indagano e che ci mostrano in positivo o in negativo i luoghi violati e la storia del mondo. Come sarà strutturato il festival? Ci sono due sezioni, che sono il documentario e il cinema. E abbiamo preferito suddividere perché ovviamente i documentari spesso riescono ad andare a fare descrizioni più realistiche e noi possiamo avere dei commenti più accademici anche su vari mondi, mentre invece il cinema, come puoi immaginare, invece li affronta con l'aspetto cinematografico, quindi della storia, andando giustamente meno in profondità. Abbiamo suddiviso in giornate per aiutare anche lo spettatore a discernere dal tema luoghi dell'anima, insomma, che potrebbe anche essere insomma il tema in fondo per ritrovare la propria stanza, no? La piccola aspirazione. Allora, per dare una possibilità in più di riflessione, abbiamo diviso in giornate, quindi il 18 marzo la giornata della memoria, del richiamo delle radici, il valore della nostra identità, il 19 marzo l'utopia, oltre alla realtà sognando un nuovo immaginario, e la terza giornata, il 20 marzo, madre terra, la natura, l'essere umano, la spiritualità dei cicli dell'esistenza. Questo per insomma stimolare lo spettatore a esercitarsi su questi temi. Facendo un passo indietro, ci parli anche un po' dell'attività dell'associazione? L'associazione è stato uno dei primi hub culturali in Italia. L'hub culturale, che adesso è una formula di museo, che addirittura è stata lanciata anche dall'organizzazione internazionale che rappresenta i musei, e che appunto questa organizzazione si auspica che i musei diventino hub culturali e trasmettono il futuro della tradizione, sono dei musei che, oltre ai loro compiti naturali, hanno anche la volontà e il coraggio di trasformare lo spettatore in protagonista, e quindi appunto nascono musei che hanno anche il luogo del dibattimento e hanno attività che avvicinano appunto gli spettatori ai temi identitari del museo stesso, insomma. E Tonino l'ha capito tanto presto, già nel 1980, probabilmente aveva già visto che stava avvicinandosi nel 1980-90 la fine del grande ciclo dei registi, incominciava ad arrivare anche la televisione, quindi in un certo senso aveva avvertito, vi ricordate anche tutti gli schermi, gli schermini che incominciavano a apparire nei pub, no? Stava proprio cambiando il linguaggio e aveva già avvertito questo assalto della globalizzazione, quindi per lui era già naturale pensare a delle formule, a un pensiero slow, quando ancora non c'era il pensiero fast. E abbiamo iniziato da subito, io sono presidente da solo 2 anni, a confrontarsi anche con gli enti locali, con i sindaci, con tutti quanti, per cercare di trovare delle soluzioni che potessero favorire insomma un'esistenza più semplice, una decrescita felice, come dice Carlin Petrini. Tornando al festival, quante sono le opere proposte? Sono 6 documentari, sono 5 film e in retrospettiva 3 film. Diamo i riferimenti internet per maggiori informazioni. Si possono trovare informazioni su www.associazionetoninoguerra.org oppure www.luoghidellanima.it. Ci tengo anche a precisare allora a questo punto che il festival verrà trasmesso gratuitamente su MyMovies a partire dal 18 fino al 21, è già possibile prenotarsi. Invece chi vuole iscrivere al sito dell'associazione sarà benvenuto e magari potremo diventare grandi amici, insomma. Prima edizione del Festival I Luoghi dell'Anima online dal 18 al 21 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore Andrea Guerra. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Cretti, a prestissimo, grazie. Con Andrea De Rosa, coregista del documentario Il Sistema Sanità, le pietre scartate, online dal 20 marzo 2021. Andrea, ben trovato. Buongiorno, salve. Ci presenti questo lavoro? È prima di tutto il nostro primo documentario e affronta, diciamo, il processo di rigenerazione urbana e culturale che si sta verificando, che si è verificato, ma continua chiaramente ad andare avanti nel rione Sanità di Napoli, che in genere, diciamo, è un luogo conosciuto per altre vicissitudini collegate purtroppo alla criminalità organizzata, ma che da ormai oltre 10 anni è uno dei più bei laboratori sociali d'Europa. Come è venuta l'idea di questo documentario? Noi siamo uno dei progetti nati proprio sul territorio, sul rione Sanità, nasciamo come etichetta discografica, in realtà uno studio di registrazione nella Basilica di San Severo fuori le mura, e poi piano piano ci iniziamo a spostare sul video. E siccome ogni anno succedevano di tutto, aprivano altre cooperative, iniziavano, diciamo, nuove attività sociali e anche imprenditoriali ovviamente, volevamo proprio iniziare a raccontare questo processo. E poi è arrivato un bando di fondazione con il Sud Apulia Film Commission che metteva insieme società di produzione con enti del terzo settore. Abbiamo scritto quella che era la nostra idea e fortunatamente poi è passata, insomma, abbiamo avuto la possibilità di realizzare questo film. Come l'avete strutturato? Come è organizzato? Si snoda su due linee narrative. La prima, che è quella proprio, diciamo, del racconto dal vero, abbiamo preferito avere un'ottica, per così dire, molto lineare, molto semplice, cioè abbiamo proprio fatto raccontare questo processo ai protagonisti dello stesso, e quindi partendo proprio dalle cooperative, quelle che lavorano più a contatto con la materia, con la pietra vera e propria, e quindi Officina dei Talenti, che per esempio si occupa di ristrutturazioni di impianti elettrici, abbiamo poi descritto quello che è un processo che porta a un vero e proprio sistema economico differente, un sistema di economia scolare, quindi basato su principi un pochino differenti dall'economia, diciamo, imprenditoriale capitalista. E dall'altra parte poi abbiamo voluto raccontarlo con delle immagini di finzione che potessero essere in qualche modo evocative di questo processo, e quindi abbiamo proprio, diciamo, girato come se fosse quasi un vero e proprio film, appunto. E l'intreccio di queste due linee poi porta allo snodo finale del film. Come reagisce il rione di fronte a tante realtà che si stanno organizzando in senso virtuoso? Molto bene, nel senso che la grande forza del processo di rigenerazione in atto alla sanità è che proprio le persone del posto ne fanno parte, sono i principali promotori di questa rinascita, di questo rinascimento, per così dire, e quindi sostanzialmente è un processo che interessa le stesse persone, e quindi chiaramente c'è una sensazione molto forte, un sentimento molto forte di comunità, e anzi è proprio la creazione della comunità probabilmente la carta vincente di questo modello. Uno degli aspetti positivi è che si è creata anche tanta attenzione verso questo modello, è almeno il secondo documentario di cui ci occupiamo, e poi anche il mondo dell'arte si sta rivolgendo con estrema attenzione a quanto sta succedendo. Assolutamente, diciamo che il principio fondamentale è che la bellezza, in qualche modo, no, per richiamare anche Dostoevsky, salverà il mondo. In questo caso molte delle cooperative lavorano proprio a stretto contatto con l'arte, abbiamo un teatro, abbiamo per esempio adesso una fucina, per così dire, di artistica, che è quella di Iago, che si è trasferito nel rione Sanità. Le stesse catacombe di Napoli d'altra parte basano, diciamo, la loro attività su un patrimonio artistico molto molto forte presente nel rione Sanità. Noi come etichetta discografica e ora anche con la produzione audiovisiva. Insomma, l'arte è uno dei motori principali all'interno del rione Sanità. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è la pagina, diciamo, Facebook e anche Instagram, Il Sistema Sanità delle Pietre Scartate, e poi, insomma, sabato andrà in onda alle 22:15 su Sky Arte, e poi da lì in poi sarà, insomma, su Now TV e quindi streaming on demand. Il Sistema Sanità, le pietre scartate, online da sabato 20 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al coregista Andrea De Rosa. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, ciao. con Alice Corte, co-regista del documentario Zeitun Fuori Campo, on demand dal 15 al 22 marzo 2021. Alice, ben trovata. Ciao a tutte e a tutti. Ci presenti questo lavoro? Zeitun è un documentario che è nato da un viaggio che abbiamo fatto in Libano, seguendo anche in parte una delegazione di squadre di sport popolare che hanno avviato un progetto che coinvolgeva una squadra che stava lì di ragazze a Shatila, quindi ragazze principalmente palestinesi che abitano in un campo profughi che insomma chi ascolta la radio conoscerà abbastanza bene, ma che appunto esiste da circa 70 anni, in cui quindi molte delle persone che ci vivono sono nate e cresciute là dentro e che hanno tirato fuori una squadra di basket. Quindi l'interesse nasceva da questa situazione, poi siamo arrivati là e il Libano ci ha portato insomma tutto il resto, perché ovviamente il Libano è di una complessità infinita. Come Stato, noi siamo stati solo a Beirut purtroppo, perché ci sono stati anche un po' di problemi legati alle rivolte che scoppiavano in quel momento. E comunque appunto abbiamo potuto conoscere sia le ragazze, che erano comunque in parte già venute in Italia con appunto alcune squadre di sport popolare italiane, e abbiamo potuto insomma produrre un documentario su questa storia e altre storie. Ma l'idea del documentario era già di partenza o è venuta lì sul campo? Era già di partenza proprio con la partenza di questa delegazione, perché inizialmente questo progetto, che giustamente dobbiamo nominare, si chiama Basket Beats Borders, che è un progetto che ha visto queste ragazze palestinesi venire in Italia un paio di volte, sono andate anche in Irlanda, in Spagna. In Spagna non mi ricordo se ci sono andate o se ci dovranno andare, comunque sono riusciti a uscire dal campo, però a un certo punto giustamente queste squadre romane hanno pensato che forse era il caso di andare a vedere anche come fosse la situazione lì. E quindi hanno deciso di partecipare a questa cosa. Quelle che erano coinvolte erano gli All Reds Basket, l'Atletico San Lorenzo Basket, inizialmente le Bull Fatal della SNIA, insomma varie realtà. Come avete deciso di strutturare il lavoro? Questa è stata un po' una cosa in corso d'opera che abbiamo deciso di fare, nel senso che siamo partiti con una serie di idee e poi queste idee si sono scontrate appunto con Beirut. Beirut comunque è una città super complessa in cui convivono tantissime differenze, tantissima ricchezza, ma anche tantissime complicazioni, e quindi siamo secondo me riusciti a mettere insieme tutta quella complessità in questi 40 minuti di documentario, cercando appunto anche di tirare fuori tutte le contraddizioni, le problematiche che vivono. Che impressioni ne hai ricavato? L'impressione è che ci sia una complessità infinita. Shatila ovviamente vive questa malinconia e rabbia a seconda delle persone, e anche forza in parte, perché poi molti progetti partono da questo, del fatto di essere appunto dei profughi da così tanto tempo in una terra che comunque non li accoglie completamente. Anche per esempio le ragazze del basket non possono poi partecipare a tornei, perché i tornei sono riservati a chi ha cittadinanza libanese, come in parte anche in Italia peraltro. Quindi è una situazione comunque molto difficile, in cui le persone palestinesi vogliono tornare in Palestina, e tutto questo si scontra poi appunto con una realtà multietnica in cui ci sono una serie di poteri anche legati appunto a religioni e non solo, insomma appunto a provenienze, che rende il tutto esplosivo insomma. E questo è stato comunque, un conto è leggere un libro o vedere un film, un conto è vedere che c'è sta appunto questo tipo di complessità e che la gente ci convive, e che c'è chi vede in questo una ricchezza e lo vuole esprimere magari anche a livello artistico, e chi invece dice no, i palestinesi qua non ci devono stare, tocca ricacciarli tutti in Palestina, quando poi sappiamo bene che la situazione della Palestina non è assolutamente fattibile appunto che tornino, e tornerebbero anche volentieri insomma. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Su Vimeo il profilo Tersite, cioè la casa di produzione, ha tutti i riferimenti, anche su Facebook, e attualmente lo screening inizia appunto dal 15 e finisce il 22 marzo, quindi una settimana, sulla piattaforma di Lift Off Festival, che è insomma una piattaforma di produzione indipendenti. Il documentario Zaitun fuori campo on demand dal 15 al 22 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Alice Corte. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo, ovviamente un saluto anche a tutti quelli che hanno lavorato a questa cosa per questo anno. Ciao a tutti e a tutti. Con Stefano Maiocchi per parlare della piattaforma 1895.cloud. Stefano, ben trovato. Ciao, grazie per l'invito. Allora, un progetto che mette insieme più realtà, ce ne parli? 1895 nasce dall'incontro di diverse realtà che operano nell'ambiente cinematografico, nello specifico siamo sale cinematografiche e case di distribuzione. Abbiamo deciso di attivare questo progetto di collaborazione comune attraverso una piattaforma di video on demand. Quindi ci siamo messi al lavoro e abbiamo creato quella che si chiama appunto 1895.cloud, una piattaforma dove ogni sala mantiene la propria identità, la propria pagina, quindi il rapporto con il proprio pubblico, però verranno portati avanti anche dei progetti in comune, proponendo delle rassegne, degli incontri. Abbiamo già iniziato lunedì con un incontro con la regista del film Sofia, una chiacchierata online, e poi ci saranno tante altre cose. Ci tengo a citare le 10 sale, perché siamo sale appunto di tutto il territorio nazionale. Iniziando dal nord abbiamo 3 sale della Lombardia, che sono il Cineteatro Astrolabio di Villa Santa, di cui io sono responsabile, il Bloom di Mezzago e il Cinema Beltrade di Milano. Poi spostandoci nel Veneto abbiamo il Cinema Odeon di Vicenza e a scendere lo Spazio Alfieri di Firenze, poi abbiamo il Cinema Margherita di Cultura Marittima, il Postmodernissimo di Perugia, il Cinema Farnese di Roma, il Multisala Iris di Messina, ci aggiungo anche Reading Bloom, che è la casa di distribuzione indipendente che si è associata in questo progetto. Immagino che siano tutte sale già in contatto prima tra loro, e cosa accomuna il vostro disegno? Sì, sono tutte sale che ormai da molti anni portano avanti sul proprio territorio un discorso di valorizzazione della cinematografia indipendente, della cultura cinematografica di un certo tipo, quindi più o meno ci si conosce. Diciamo che poi, grazie ahimè al primo lockdown, i rapporti si sono fatti più stretti. Abbiamo iniziato a confrontarci su una lettera di sostegno alla cinematografia indipendente che si chiamava Lasci, appunto punto cloud, che è una lettera che si può ancora sottoscrivere. Finora ha raccolto più di 6.000 firme, e da lì poi sono nati tanti, tanti altri progetti, tra cui appunto questo di cui stiamo parlando oggi, che è 1895.cloud. Quello che ci piaceva fare era un progetto collaborativo, un progetto, noi lo chiamiamo di collaborazione orizzontale. Sono nate tantissime piattaforme in questo periodo, in questo anno di chiusura, e però ci sembrano tutti dei progetti un po' calati dall'alto, no? Un po' in verticale, cioè o è un soggetto che apre la propria piattaforma, oppure quando si parla di diverse realtà sottostanno comunque a un altro soggetto che sta sopra. Nel nostro caso invece siamo 11 soggetti, che speriamo diventino anche di più perché siamo aperti a qualsiasi altra entrata. Siamo 11 soggetti che collaborano alla pari, che si incontrano, decidono, magari anche si scontrano su alcuni punti perché è normale. Però ecco, ci piaceva molto questa cosa della collaborazione, della cooperazione, che in un tempo di individualismo e di distanza anche, no? Secondo me è un po' rivoluzionario. Sono curioso di sapere anche come si strutturerà la proposta, visto che siete appena nati. Ovviamente adesso abbiamo in catalogo una 50 di film che ovviamente verranno incrementati, ma ad esempio oggi abbiamo avuto un incontro per decidere i prossimi titoli da mettere a catalogo. Stiamo prendendo accordi con le varie distribuzioni, i vari autori indipendenti, per appunto ampliare sempre più la proposta. Ogni sala appunto ha la sua pagina, E su quella pagina porterà avanti quello che è il lavoro che fa anche nella sala fisica, cioè con la propria programmazione. Avremo dei film in evidenza che cambieranno di settimana in settimana, pur mantenendo comunque tutto il catalogo. Ecco, quello che magari secondo me è importante sottolineare è che ci sarà anche una guida, no, alla scelta, che è quello che facciamo appunto come lavoro nostro di programmatori. Scegliamo dei film che ci sembrano interessanti e che quindi proponiamo al nostro pubblico, che sia poi in presenza, che speriamo di tornarci presto, o sulla piattaforma, poco cambia. Ci dai tutti i riferimenti web? www.1895.cloud. Poi siamo anche ovviamente sui social, Facebook, Instagram, abbiamo il nostro canale YouTube, insomma siamo al passo con i tempi, diciamo così. La piattaforma 1895.cloud, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Stefano Maiocchi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Con Davide Vigore, ideatore del progetto YouMovie, online da lunedì 22 marzo 2021. Davide, ben trovato. Grazie, grazie per l'invito. Ce ne parli? YouMovie è la prima piattaforma italiana dove ci sarà il cinema indipendente e il cinema d'autore. Abbiamo pensato che in questo momento storico, dove un certo tipo di cinema che sarebbe destinato ai festival, agli eventi culturali, ma per il momento storico in cui stiamo vivendo tutte queste attività culturali non sono possibili, quindi questo tipo di cinema si perderebbe perché insomma non rientra nei grandi, diciamo, circuiti come per esempio c'è Netflix, Amazon. Allora ho pensato di mettere su, assieme ad alcuni miei amici, ex studenti del centro sperimentale, questa piattaforma che potesse essere un po' un teatro per questo tipo di cinema, dal documentario, al cortometraggio, film indipendenti e d'autore. Però non ci siamo solo fermati appunto a creare una piattaforma di streaming, ma quello che ci interessava pure, perché non è solo per questo momento pandemico, ma anche per dopo, perché abbiamo creato una community, cioè l'idea di creare un primo social community dove tutte le persone che gravitano nel mondo della cultura, del cinema e dello spettacolo si possono trovare nel loro profilo, possono condividere i film, commentare i film e quindi in qualche modo provare a fare rete, a fare cioè networking, dato che in questo momento storico tutti quanti siamo chiusi nelle proprie case, nei propri studi, quindi è veramente difficile fare rete. Quindi YouMovie ha anche questa finalità, questo progetto di poter mettere assieme persone che in questo momento, appunto, per motivi che sappiamo, hanno difficoltà ad incontrarsi. Come sarà strutturato? Intanto è totalmente gratuita, ti iscrivi e all'interno appunto troverai una sezione film che sarà divisa per appunto documentari, cortometraggi e film. Ci saranno eventi speciali perché abbiamo aperto anche al teatro, alle arti visive, quindi sono anche proprio degli eventi speciali. Poi c'è tutta la parte live, quindi diciamo, creiamo anche un nostro palinsesto di alcuni film, abbiamo fatto l'accordo con alcuni festival, con alcune rassegne, quindi faremo live anche di festival, di eventi culturali. Poi c'è addirittura una parte molto bella che si chiama Planisfero, in cui tutto il mondo e avrai segnato da quali parti del mondo arrivano i film, quindi tu puoi decidere di vedere dei film in base anche alla nazionalità, quindi è un modo per vedere nuovi sguardi cinematografici, quindi avrai come la sensazione di intraprendere un viaggio. Poi un'altra sezione che abbiamo creato si chiama Idea Regalo, tu grazie all'app che puoi scaricare già dal 22 su YouMovie puoi regalare con un euro un film, quindi diciamo, la sera uno può scegliere i film, ma dato che ci sarà questa comunità di cinefil ti possono anche essere consigliati e con un euro uno lo può condividere, cioè lo può regalare. Poi l'ultima parte, come dicevo prima, quella della community. Tu hai un tuo profilo dove c'è la lista dei film preferiti, la lista dei film commentati e c'è un home page che generalmente verrà utilizzato per commentare i film e condividere i film. Quindi questo più o meno velocemente è un po' come funziona YouMovie. Poi c'è la possibilità anche di poterci affidare a noi i film per organizzare una distribuzione degli stessi, quindi i produttori, i distributori che in questo momento hanno un film sono privi di distribuzione, possono chiedere a noi e noi ci occupiamo appunto della distribuzione festivaliera del lavoro e lo muoviamo con i nostri canali social, anche perché abbiamo un ufficio stampa, quindi è anche un modo per promuovere un cinema che, come dicevo prima, è ultimamente poco valorizzato. Come si finanzierà il progetto? Partiamo dal fatto che noi l'abbiamo creato con un piccolissimo contributo che ci ha dato il Ministero e quindi siamo riusciti a metterlo su. Però si può autoalimentare in due modi. Intanto il film, il produttore o il distributore può decidere se metterlo gratuitamente oppure a pagamento sulla piattaforma. Se lo mette gratuitamente, nessun problema, quindi noi non tassiamo la cultura, quindi il film si può caricare gratuitamente e il pubblico lo può vedere gratuitamente. Se invece il produttore o il distributore decidesse di mettere il film a pagamento, uno paga un biglietto singolo che va da 1 euro a 3 euro, in base a se è un cortometraggio, un documentario, se è inedito o meno. E poi il 50% degli incassi va appunto agli aventi diritto, quindi il produttore, il regista, e l'altro 50% resta invece alla piattaforma per alimentarsi. Sì, e principalmente per alimentare tutto quell'aspetto della comunicazione. Abbiamo un social media manager che si occuperà ogni volta che i film sono affidati a noi a promuovere i film. Questa è un po' la struttura che abbiamo immaginato, quindi è molto, molto democratica. Ecco. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Basta andare su www.youmovie.it, ci sono anche delle mail per chi volesse proporre la propria opera oppure chiederci informazioni. La prima mail è info@youmovie.it. Se uno volesse proporre il proprio film basta scrivere a distribuzione@youmovie.it. Invece se qualcuno volesse parlare con me, davide.vigore@youmovie.it. Quindi siamo disponibilissimi, anche perché questo è un progetto inclusivo, cioè noi lo abbiamo messo su ma non siamo per nulla gelosi, anzi siamo convinti che questo progetto può avere seguito solo se c'è una condivisione, solo se c'è un entusiasmo da parte di tutti. Quindi noi siamo alla ricerca di persone che vogliono in qualche modo sposare la nostra iniziativa, quindi siamo ben felici di aprire le porte di YouMovie a chiunque fosse interessato. La piattaforma YouMovie online da lunedì 22 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Davide Vigore. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, un abbraccio, ciao, grazie. Con Vania Mitrano, curatrice del canale podcast Arte del Cinema Back to the Movies. Vania, ben trovata. Ciao Federico, grazie mille di questo invito. Ci racconti di questo progetto? Back to the Movies è una trasmissione, un format che nasce a gennaio del 2017, un format radiofonico dedicato esclusivamente al cinema. Da un'idea di Giulia Carla De Carlo, che è una collega con cui scrivevo su un giornale che si chiama 22righe.com, scriviamo ancora su 22righe.com, è andato avanti fino al 2020. Dopodiché ci siamo resi conto del grande successo che sta avendo il formato podcast da un punto di vista della comunicazione e quindi abbiamo deciso di spostare la nostra trasmissione dalla radio al podcast. È diventata Arte del Cinema Back to the Movies e questa cosa ci ha consentito di aumentare le rubriche, di aumentare la collaborazione anche con altri colleghi di altri settori, sempre cinematografici. E sta andando molto bene, siamo molto contenti, riusciamo a curare una rubrica sul cinema indipendente insieme a Massimo Righetti e una rubrica invece che si occupa di approfondimenti sempre sul cinema, qualcosina anche sulle serie TV e la televisione, ma prevalentemente il focus è sempre sul cinema. Insomma, va bene, siamo molto contente, soprattutto ci piace tantissimo, è un modo per coltivare questa passione che non ci abbandona nemmeno sotto lockdown. Ecco, ci hai anticipato della collaborazione con Massimo Righetti. Com'è strutturato nel complesso il canale? C'è una rubrica che si chiama Ogni maledetto indipendente, che è curata principalmente da Massimo Righetti, che è un distributore cinematografico, nonché esperto di cinema, curatore artistico di rassegne. Si occupa principalmente di intervistare talent del mondo dell'arte cinematografica indipendente e anche di chi quest'arte provvede a diffonderla come esercenti, distributori, produttori, quindi insomma ad ampio raggio su una parte parte del cinema molto importante che troppo spesso viene trascurata. Mentre l'altra rubrica, che si chiama la rassegna stampa cinema, ogni settimana ci propone una sintesi delle principali notizie sul cinema prese dalla carta stampata sia nazionale che internazionale, per avere sempre un panorama completo su quello che sta accadendo nel mondo del cinema e rifletterci anche un po' su. Quindi abbiamo iniziato a novembre, devo dire la cosa è molto divertente. In questo momento mi occupo prevalentemente io della rassegna stampa cinema, ma mi sto facendo aiutare da altri colleghi, giornalisti, autori di cinema per poter commentare le notizie insieme a loro. A che ritmo pubblicate sul canale? Il canale ha una media di 3 puntate a settimana. Qualche volta in casi speciali, come è stato per esempio quest'ultimo della Berlinale che abbiamo seguito da remoto online, abbiamo pubblicato una puntata in più dedicata esclusivamente alla Berlinale, ma mediamente manteniamo una pubblicazione di 3 puntate a settimana. Volevo sapere se hanno tutte lo stesso formato le pubblicazioni. L'obiettivo sarebbe quello di riuscire a rimanere entro i 20-30 minuti per cercare di non annoiare troppo i nostri ascoltatori, che però devo dire comunque anche su puntate più lunghe ci seguono con molto affetto e partecipazione, l'abbiamo potuto vedere, e di fatto qualche volta gli argomenti sono talmente tanto interessanti o a volte anche un po' complessi, per cui richiedono uno sviluppo a livello temporale un po' più lungo, quindi siamo arrivati a puntate anche di 40 minuti per la rassegna stampa, abbiamo raggiunto record anche di un'ora, ma insomma diciamo sempre ai nostri ascoltatori, sentite quello che vi piace, quello che vi va, perché è questo il bello del podcast, che non si è vincolati a un palinsesto e nemmeno ad un orario di messa in onda, gli ascoltatori possono liberamente sentire il podcast, l'episodio che hanno scelto, quando vogliono, quanto tempo vogliono e in qualsiasi momento lo desiderino, quindi questa flessibilità ci piace molto e vedo che piace anche molto agli ascoltatori. In Italia il podcast sta prendendo piede adesso, devo dire, però all'estero, per esempio in America, è qualcosa di molto molto utilizzato anche da mezzi di comunicazione anche molto importanti, parlo di testate giornalistiche, magazine, radio, insomma un po' tutti si stanno spostando sul podcast, ci crediamo molto. Come finanziate il canale? Il canale è autofinanziato in questo momento, è autofinanziato, abbiamo degli amici che ci aiutano da vari punti di vista, mettendo in campo la loro professionalità, per esempio per le musiche di Ogni Maledetto Indipendente abbiamo 2 amici e professionisti dell'ambito musicale che ci hanno regalato un riff e la sigla, sto parlando di Stefano Sellan e Sergio Calabro. Sono 2 musicisti, suonano musica rock e hanno composto veramente per noi dei riff originali di cui andiamo molto molto orgogliosi, siamo veramente molto contenti. Hanno dato una spinta molto grossa alla trasmissione, quindi li ringraziamo tantissimo. E poi c'è il contributo di altri colleghi giornalisti che di tanto in tanto partecipano alla trasmissione con le loro opinioni e anche di questo siamo molto molto grati. Tra l'altro ci appoggiamo ad un'associazione che è l'Associazione Italiana del Podcasting, che ci offre a tutti i suoi associati un sostegno da un punto di vista di aggiornamento, comunicazione e anche messa in rete tra i podcaster, perché anche quello è molto molto utile e molto importante. I contributi sono sia audio che video? Noi continuiamo ad avere un canale video su YouTube che dedichiamo prevalentemente ad interviste un po' più eccezionali, forse anche verso il mondo della televisione, quindi personaggi un po' più noti al grande pubblico, ma che di fatto un pochino esulano da quello che è la nostra linea editoriale vera, che è abbastanza orientata sul cinema d'autore, cinema dei festival, o quel cinema che va un po' scoperto. Quindi principalmente il canale podcast è il principale mezzo che utilizziamo sempre. Ci lasci tutti i riferimenti? La trasmissione si chiama Arte del Cinema Back to the Movies, si trova su Spotify, su Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e tantissime altre piattaforme audio in cui normalmente si fruisce musica, ma si può anche accedere a contenuti podcast, basta cercare il titolo. Poi abbiamo i canali social come tutti quanti, la nostra pagina Facebook Back to the Movies Arte del Cinema, il canale Telegram su cui pubblichiamo gli aggiornamenti di tutte le puntate, che è Arte del Cinema Back to the Movies, come dicevo prima il canale YouTube sempre Back to the Movies Arte del Cinema, un pochino anche Instagram, su Instagram più che altro sulle storie, se ci volete trovare è più facile arrivare alle puntate pubblicate su Spotify. Arte del Cinema Back to the Movies, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Vania Amitrano, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, a prestissimo, in bocca al lupo anche a te e buon lavoro. Con Martina Schmidt, direttrice artistica della prima edizione di Max Tremin Very Short Film Festival dal 10 al 21 marzo 2021. Ben trovata! Ciao, come state? Tutto bene, tu? Io sto benissimo, un po' in ansia perché inizia il festival ed è la prima edizione, però per il resto contenta. Ce lo presenti? È un festival nato a ottobre e la cosa bella è che da un'idea nata nel lockdown precedente nella mia testa sono stata molto fortunata a trovare delle persone che hanno fatto diventare un'idea una cosa reale, perché le persone che mi aiutano sono veramente stati bravissimi e il taglio è questi 3 minuti, nel senso che non è una cosa la contemporaneità del fatto che adesso nessuno ha tempo, ma in realtà anche che in 3 minuti o in tempo corto uno può anche raccontare un quadro, in fondo lo vedi in un istante, no? Poi è nato in realtà perché io ho fatto tanti video musicali, le canzoni durano intorno ai 3 minuti. Negli anni 90 ho visto per ore e ore e ore La noce dei publivori e per cui mi drogiolavo in quell'idea dei tempi corti in cui possono nascere delle cose belle. Per cui abbiamo chiesto al mondo, e perché vogliamo essere worldwide, perché così è giusto adesso, che ci mandassero dei filmati, dei 3 minuti ci raccontassero una storia senza categorie, perché in realtà ci piaceva che qualcuno esprimesse quello che aveva dentro, no? Forse anche per il periodo che stavamo vivendo, vogliamo anche uscire dal fatto della pandemia, eccetera, eccetera, però siamo nati in questo periodo, per cui abbiamo avuto anche tanti film che hanno a che fare con la pandemia e per cui, insomma, è nato il festival, abbiamo ricevuto tantissimi film da 97 paesi del mondo. Quando si è chiusa la call, a me sembrava che era Natale, anche se era il 14 gennaio, perché l'idea di aver ricevuto dopo il lavoro che abbiamo fatto, perché è stato un lavoro molto ben fatto, credo, ma anche faticoso, era bellissimo, bellissimo aver avuto questa risposta. E per cui niente, dopo abbiamo selezionato da questi migliaia di film che ci hanno mandato, ne abbiamo tirati fuori 100, trasmessi sul nostro maxtremin.com. Come saranno organizzate le giornate? Visto che abbiamo vari fusi orari, saranno dalle 9 di stasera fino alle 9 di domani sera, 9 pm, orario europeo, CET, andranno in loop 10 film, 10 microfilm, perché in realtà sono mini film, così tutti i paesi del mondo nei vari fusi orari lo possono vedere, chi si logga sul sito lo potrà votare. Chi non si logga lo potrà vedere lo stesso, perché anche quello è una cosa importante per me, soprattutto visto che siamo su internet, che siamo su online e voglio che sia libero. Certo, poi chi si logga ha la possibilità di votare e di dire la sua, di dire la sua voce, di votare sia mi piace ma anche sia mi fa schifo, forse no, anche non mi piace. E qualcuno per 10 giorni andrà avanti così fino al 20 alle 9 di sera che si chiude il passaggio dei 100 film e il 21 alle 21:21 del 2021 ci sarà la diretta dove ci sarà proprio le premiazioni di una top 10. Sempre per il discorso della musica, per il discorso dei 3 minuti, per il discorso di fare una cosa un pochino, se vogliamo, diversa ai soliti film festival, ci sarà una top 10 di 10 film in ordine, come le top 10 degli anni 70, e un vincitore assoluto che riceverà questo premio di 3.000 euro per fare un altro corto e possibilmente mandarcelo l'anno prossimo, se sopravviviamo, a una seconda edizione, cosa che quasi sicuramente sì. Quanti ne saranno programmati in loop ogni giorno? 10 al giorno, 10 per al cui giorno. Per 10 giorni potrai vedere un totale di 100 film selezionati da oltre 3.000 che ci hanno mandato. Ci dai anche tutti i riferimenti web? Sono www.max3min.com, che è la nostra piattaforma che abbiamo costruito apposta per il festival. Si entra, si loghi e puoi vedere il festival, puoi votare, puoi vedere il live e puoi avere tutte le informazioni che ci sono, puoi vedere anche chi siamo e chi abbiamo collaborato in questo festival, perché veramente ci sono un sacco di persone bravissime. www.max3min.com. Un'ultima curiosità, questa misura dei 3 minuti è legata, come citavi all'inizio, alla durata media di una canzone? I 3 minuti sono belli innanzitutto perché ci sono un sacco di cose col 3, a me divertiva il 3. All'inizio volevamo fare 1 minuto, poi abbiamo detto vabbè arriviamo a 3, no? Ma 3 c'è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, chi fa da sé fa per 3. E 3, cioè 3 minuti ci vogliono per fare il popcorn dentro al forno a microonde, 3 minuti per cuocere un uovo alla coca. Questo 3 ci girava bene e poi in realtà, se uno va più a vedere la struttura, diciamo che le canzoni non è che durano 3 minuti, durano magari anche 1, magari anche 7 se vai su della musica elettronica di Philip Glass, ad esempio, per dire. Però è il tempo in cui veramente un pezzo tu lo puoi risentire e riascoltare più volte. Per cui in realtà a noi piaceva l'idea di rivedere dei filmini, delle impressioni, delle cose filmate più volte, come ascolti una canzone. Un film di 2 ore, certo che lo puoi vedere più volte, ma non proprio più volte nello stesso giorno, capito? Prima edizione del Max 3min Very Short Film Festival dal 10 al 21 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Martina Schmid. Grazie a te tante. In bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a tutti, a te specialmente, e un bacio. E guardateci, sarà bellissimo. Con Enzo Bevar, uno dei curatori della prima edizione di Schermi in Classe Film Festival su mymovies.it dal 15 al 19 marzo 2021. Ben trovato! Buongiorno Federico, grazie a te. Raccontaci di questa iniziativa. Federico, Schermi in Classe in realtà è un progetto che nasce 10 anni fa per portare il cinema all'interno delle scuole italiane. Con il nostro furgoncino del cinema itinerante allestiamo vere e proprie sale cinematografiche nelle palestre, nelle aule magne, nei corridoi. Lo scorso anno, in pieno lockdown, durante il mese di marzo, visto l'amicizia e il rapporto storico che abbiamo con MyMovies, abbiamo lanciato 4 visioni streaming gratuite rivolte al mondo scuola, e quest'anno abbiamo deciso di strutturarlo un po' di più, ovvero immaginarlo come un vero e proprio festival, essendo comunque Schermi in Classe da più di 2 anni selezionato da Miura e Impact all'interno del piano nazionale cinema per la scuola. Quindi diventerà un vero festival che speriamo sia la prima edizione online, che continuerà anche nei prossimi anni, sperando sempre però di poter tornare anche fisicamente all'interno delle scuole. Quanti titoli avete scelto e quali sono? Quest'anno abbiamo 5 film in programma, sono 3 documentari e 2 film di finzione. Iniziamo il 15 con Selfie di Agostino Ferrente, un documentario che probabilmente non ha bisogno di presentazioni perché ha già vinto tanti premi e che comunque racconta la storia di questi 2 ragazzi all'interno del rione Traiano a Napoli e di un momento un po' particolare legato all'omicidio di un loro amico per mano delle forze dell'ordine in un momento chiaramente di errore. E Alla mia piccola Sama, anche in questo caso stupendo lavoro documentario che ci porta ad Aleppo in Siria e ci racconta gli orrori della guerra, per tornare poi in Italia con La terra dell'abbastanza e La nostra strada, il primo dei fratelli Fabio e Damiano di Innocenzo e il secondo di Pier Francesco di Lidoni, 2 film che anche in questo caso hanno i ragazzi al centro come protagonisti, il primo ambientato nelle periferie romane e il secondo invece che accende un po' un faro, un riflettore anche sul tema della dispersione scolastica. Chiuderemo con il film che, se vuoi, è quello più indicato anche per le scuole primarie, che è La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, ispirato al celebre libro di Buzzati, un film d'animazione secondo me bellissimo, straordinario, che ci porta a chiudere questa rassegna con un'attenzione. Abbiamo deciso appunto di dare assieme a Libera, che è partner del progetto, per i più piccoli che spesso hanno un po' più di difficoltà a trovare anche dei film che riguardino la cittadinanza attiva, l'impegno. Ecco, la famosa invasione degli orsi in Sicilia è un film secondo me straordinario per avvicinare i più giovani a questi temi. Sarà un film al giorno? Un film al giorno, ogni mattina le classi delle scuole di tutta Italia gratuitamente possono prenotare uno o più posti online, per chi è in didattica a distanza chiaramente un posto per ogni studente. Il 15 mattina si inizia alle 10, tutti i film sono disponibili fino alle 2 del pomeriggio, noi consigliamo però la visione a partire dalle 10 perché alla fine di ogni film sarà previsto un incontro con il regista o l'autore o comunque una persona che accompagnerà gli studenti ad approfondire il tema del film. Quanti sono gli studenti coinvolti? Schermi in classe da anni raggiunge 1500 studenti, quindi 11 scuole in 11 regioni diverse. Il festival si rivolge chiaramente a loro, ma MyMovies ci ha messo a disposizione delle sale virtuali da 3000 posti ciascuno e quindi speriamo di coinvolgere e raggiungere anche tanti studenti delle scuole italiane che hanno in questo modo l'opportunità di vedere un film gratuitamente online assieme ai propri ragazzi per fare un passaggio di avvicinamento al 21 marzo. Abbiamo scelto proprio questo periodo dal 15 al 19 perché il 21, come sai bene, come sapranno bene i tuoi spettatori, è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. Quindi assieme a Libera questa rassegna, se vuoi, è un po' un percorso di avvicinamento al 21 marzo. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web? Su www.mymovies.it/ondemand/cinemovel è possibile prenotare un posto all'interno della sala. Sul sito di Screaming Class, che è www.cinemovel.tv/sic, è possibile trovare tutti i kit didattici che sono proposti anche gratuitamente per tutte le scuole che decidono di aderire al progetto. Prima edizione di Screaming Class Film Festival su mymovies.it dal 15 al 19 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Enzo Bevar. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a prestissimo Federico. Con Barbara Goretti per presentare Ritratto Rosso, Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini, studi di Cinecittà a Roma dal 25 febbraio al 21 marzo 2021. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno Federico. Ti presenti questa mostra? Noi abbiamo inaugurato una mostra temporanea nel Teatro 1 di Cinecittà che si intitola appunto Ritratto Rosso, Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini, che è una mostra fotografica che chiude idealmente l'anniversario dei festeggiamenti della nascita di Federico Fellini iniziati nel 2020. Chiude idealmente perché una mostra, essendo insomma un atto di pensiero, in realtà apre in genere a delle riflessioni, quindi nello stesso momento siamo riusciti anche a riaprire Cinecittà ai visitatori e quindi per noi questa esposizione ha un significato ancora più forte. Come si caratterizza? Si tratta di una selezione di immagini fotografiche concesse dallo studio Catalano che raccontano il rapporto di collaborazione tra Elisabetta Catalano stessa e Federico Fellini, poiché Elisabetta Catalano iniziò a fare la fotografa proprio sul set di 8 e mezzo, dove in realtà era stata scelta da Fellini come attrice. Quindi 8 e mezzo, girato a Cinecittà, segna l'inizio del lavoro della Catalano come fotografa e la stessa ritorna negli studi con questa mostra insieme a Fellini, con cui collaborò moltissimo, soprattutto come ritrattista. E infatti questa mostra è soprattutto una panoramica del lavoro di Elisabetta Catalano sul ritratto e in particolare anche su quello di Fellini o sui personaggi che hanno animato alcuni set di Fellini, soprattutto rispetto a film come appunto 8 e mezzo, Città delle Donne, Satirico, Intervista, La Voce della Luna, che sono diciamo i blocchi principali di riferimenti filmici che affronta la mostra, e poi una serie di fotografie di ritratti dedicati al maestro che sono estremamente significativi perché